Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, i diari di Tiziano Terzani pubblicati a 10 anni dalla sua morte. Ne parliamo con la moglie, Angela Terzani. Scelti i 5 finalisti del premio Campiello. Ecco chi sono. Per parlare di festival letterari andiamo a Cagliari. Dal 5 all'8 giugno c'è Leggendo Metropolitano, dedicato al tema del gioco. In occasione dei 10 anni dalla morte di Tiziano Terzani, la Longanese ha pubblicato Un'idea di destino, diari di una vita straordinaria. La prefazione di questo libro è stata curata dalla moglie, dalla vedova di Terzani, Angela Terzani. È una storia molto bella anche su come si è arrivati alla pubblicazione di questi diari, proprio la scoperta di questi diari, perché sono diari che Terzani ha scritto in 20 anni, fra l'84 e il 2004, ed erano suoi appunti che prendeva in qualsiasi circostanza, anche su un computer, nella sua vita meravigliosa, avventurosa in giro per il mondo, lo sappiamo, dalla Cina al Giappone, all'India. Innanzitutto, che effetto le ha fatto pubblicare, quindi donare agli altri, al pubblico dei lettori, qualcosa di così intimo di Tiziano Terzani? È una buonissima domanda, perché naturalmente uno scrittore pubblica quello che intende per il pubblico e tiene per sé quello che intende per sé. Però ho visto che Tiziano ha avuto sempre un particolare interesse per diari, anche di altri, perché sosteneva che è nelle code dei discorsi, nell'ombra, in quello che segue o quello precede, che poi si trova la chiave della persona oppure della materia di cui si tratta. Per giunta poi li ha conservati con grande sistematicità, tutti organizzati in dischetti e poi in floppy con la data scritta sopra. Negli ultimi mesi della sua vita ha passato mezze nottate intere a eliminare tutto quello che lui non voleva fosse conservato. Passava veramente, lo trovavo all'alba seduto lì che cancellava, eliminava, buttava via. Quindi di fatto la scelta è stata di Tiziano Terzani, quello che lui voleva comunque lasciare agli altri. In sostanza sì, ma non era possibile pubblicarlo in quella forma. In quella forma era impossibile, c'era una grandissima varietà e c'erano appunto 3.500, una volta stampati gli appunti erano 3.500 pagine. Lui viveva alla fine della sua vita, lui che era stato molto geloso delle sue cose, dei suoi scritti, dei suoi libri, tutto quello che aveva raccolto, gelosissimo, e guai a toccarlo, manipolarlo, così. Alla fine ha mollato tutto, no? Ha mollato perché questo era anche necessario, mollare per accettare la morte. Se uno si aggrappa alle cose, non le vuole lasciare. Quindi alla fine di tutto ci ha detto, fatene quello che volete. L'unica cosa di cui a me ha detto, per favore cerca di trovare una collocazione, era la sua biblioteca. Ma non ha parlato dei diari. Io anzi gli ho detto, Tiziano, ho trovato una pila di diari. Ah, ha detto, quelli, e basta. Questi diari regalano al pubblico dei lettori appunto una visione molto intima di Terzani, quello che lui pensava proprio profondamente delle cose, i suoi percorsi mentali, anche le sue difficoltà. E lei, che ha passato una vita insieme a lui, ha scoperto qualcosa di nuovo che non si aspettava di Tiziano Terzani attraverso queste parole, perché poi ognuno di noi nei diari mostra veramente se stesso. Devo dire che ho scoperto la sincerità, la verità, più di quanto pensassi. Cioè, Tiziano era anche un attore, era anche uno che era troppo orgoglioso per mostrare, per rivelare di sé la vera verità, i veri sentimenti e l'intensità di questi sentimenti. Per cui, come tanti altri, ho preso quello che lui diceva anche come un po' fai la scena, no? Perché era un bravo fiorentino, sapeva fare una bella figura, la voleva anche fare. Allora io dicevo, ora con tutta questa catastrofe che ci stai raccontando, questo esecrabile comportamento, così, un po' fai la scena. Ma non è vero, era proprio sentitissimo e lui non nascondeva solo facendo un po' il brillante, ma era sentitissimo. A me mi ha proprio sconvolto la profondità, la disperazione a volte di dove andava il mondo e anche quanto gli pesava fino a non dormire la notte, alzarsi la notte a scrivere appunti e sempre pensare cosa posso fare io, come posso reagire io al fatto che il mondo vada adesso nella direzione, diciamo, del materialismo, del consumismo. Per lui una delle peggiori notizie. I diari iniziano, appunto, dicevamo, dall'84, da uno dei momenti fondamentali della vita di Terzani, cioè il momento in cui viene espulso dalla Cina. Lui è stato uno dei primissimi giornalisti a entrare in Cina e a poterla raccontare. Poi però, appunto, viene espulso per una serie di ragioni. Come visse questo momento? Fu una delusione profonda del comunismo e della Cina di Mao? Dunque, l'espulsione è la conseguenza della sua delusione. Ha cominciato a visitare la Cina secondo province, nelle diverse province studiava diversi argomenti. Per esempio andava nell'ex Manciuria, dove c'era l'industria pesante cinese, per vedere a che punto era questa industria pesante. Una catastrofe, era praticamente tutto fermo. E avanti così, prendendo Shanxi nel cuore dell'antica Cina per vedere la cultura, tutto devastato. Allora, articolo dopo articolo, questi hanno fatto un dossier e si sono detti: questo signore prima o poi vola fuori, no? Però lui era imperterrito, lui diceva: io lo faccio non perché odio la Cina o odio i cinesi, perché mi stanno a cuore. Io vedo che questo paese sia distrutto in maniera grave, no? Grave, perché era un'antica civiltà. E denuncio semplicemente perché mi dispiace questa cosa e che bisogna correggere la linea. Anche lui era stato socialista, no? Comunista. E anche lui stesso doveva rimettere a tiro la sua linea, il suo, no, mettere a fuoco un altro, non un altro ideale, un altro modo per arrivarci, non attraverso la dittatura e lo stato totalitario, le persecuzioni e le distruzioni. Non gli sembrava il caso. Però i cinesi sono quello che sono, e non solo i cinesi, ma gli stati totalitari sono quello che sono, o sei con noi o se ti va bene ti butto fuori, se no ti butto in campo di rieducazione o in prigione. Dopo la Cina arriva il Giappone, Tokyo, insomma Tiziano Terzani ha vissuto veramente in tanti paesi, si è calato nella realtà umana di tanti paesi diversi. Secondo lei qual è stato il contesto dove si è più sentito se stesso? Ma il paradosso che è stato la Cina, il paradosso è proprio questo, e per questo la ferita è così grave. Ma lei deve pensare a una Cina diversissima da quella di oggi. In quella di oggi non c'è più possibilità di empatia, perché sono tutti diventati dei soldati. All'epoca erano vittime ed era ancora, c'erano dei bei resti del vecchio. Tornavano dai campi di concentramento e ti accorgevi che di concentramento, di lavoro, dalle prigioni, ti accorgevi quanta civiltà c'era dietro questa gente. E poi ti raccontavano della vecchia Cina, tutti gli episodi, portavano a vedere le fabbriche che seppellivano monasteri o pagode, ti facevano vedere quello che c'era stato. E poi lui aveva questa grande biblioteca da cui semplicemente a leggere uno diceva: allora dov'è questa pagoda? Dov'è questo monastero? Non era qui? Ah no, ora c'è una fabbrica, ah no, ora c'è un ospedale. Insomma, lì però veniva questo rispetto enorme della civiltà, una civiltà che non ha poi dato tanto noia, non ha aggredito, non ci ha aggrediti, ha fatto il suo. Allora, lì si è sentito molto bene perché è immenso. Noi occidentali non ci eravamo granché entrati, eravamo rimasti alle coste. Nell'interno, i grandi deserti, le antiche città, era tutto da scoprire. E Tiziano era un esploratore, e questo lì veramente lo affascinava. Sarebbe volentieri, aveva un grosso progetto di capire pezzo per pezzo, secondo i diversi aspetti, questo paese. E poi anche un'altra cosa, i cinesi in verità sono molto simili agli italiani. Noi per il fatto della loro maschera pensiamo siano come gli inglesi, ma i cinesi dicono ma no, ma gli inglesi che noia sempre con quella maschera, non se la sanno mai togliere. Loro se la tolgono e sembrano napoletani tutti quanti. Sì. E anche nel barzellette che circolavano, quello che si chiamava il Gazzettino di Pechino, in uno stato dove non si deve parlare, non si deve pubblicare, non si deve sapere niente, tutti sapevano tutto perché se le raccontavano, un po' come in Italia, no? Non l'ubbidienza tedesca o inglese o americana alle leggi, per niente. E anche questo sotto il totalitarismo si divertiva. Poi loro apprezzavano lui che andava vestito a giro come un cinese, coltivava i grilli, amava le loro cose, le collezionava come le avevano collezionate. In un tempo si sentivano profondamente riconosciuti nelle loro tradizioni. C'era veramente una bella simbiosi. Tiziano Terzani, lo sappiamo, è stato giornalista, scrittore, grandissimo viaggiatore. A un certo punto, per alcuni lettori italiani è diventato quasi un guru, no? Un punto di riferimento intellettuale, spirituale. Questo vestito che gli avevano messo un po' gli altri, gli dava fastidio o lo viveva così, con normalità? Se lei guarda i diari, lui si rifiuta, si ribella in continuazione, dice io non sono un guru di niente, ognuno è il guru di se stesso. Lui non tollerava maestri, cioè ha cercato sempre un vero maestro e non l'ha mai proprio trovato, ma non tollerava essere un seguace di nessuno. Bisogna anche dire che era fiorentino e i fiorentini sono degli efferati individualisti e non vogliono che qualcuno gli dica fai così, fai cosa. Lui aveva il dubbio sempre nel presente, no? E dice perché devo accettare una verità da uno che me la dice? Bisogna che la faccia mia, bisogna che venga da me. Non, proprio un seguace non voleva e non si sentiva di avere seguaci. I diari per me sono stati importanti da pubblicare proprio per ridimensionare questa figura di Tiziano Guru. Non è guru, è un uomo che cerca dal primo giorno all'ultimo, un uomo che ha detto di sì, e come credo anche Bruce Chatwin l'aveva inventata lui, che la meta è la strada, camminare, andare avanti, la ricerca non finisce mai, mentre per il guru è finita, eh? Lui si siede e dice venite qua e ve la spiego tutto io, il contrario. E poi anche questa specie di disperazione di uno che cerca e non trova, no? Perché la perfezione non esiste nel mondo, non è che lui cercasse la perfezione, ma cercava almeno, come all'inizio della sua vita ha cercato di arrivarci attraverso il socialismo, poi con la delusione di Pol Pot, di Mao, di Stalin, eccetera, ha cercato di arrivarci in una qualche altra maniera, ma quale maniera? Non certo il materialismo, non certo l'economia al comando, la globalizzazione, no, lui amava la terra troppo per vedersela unificare in quel modo lì, con l'unico scopo di permettere all'economia di raggiungere il massimo del guadagno. E questo lo addolorava sul serio, perché diceva decidiamoci, perché se vogliamo distruggere il passato non lo si ricostruisce più una volta che ce ne pentiamo, perché bisognerebbe sapere oggi dove vogliamo andare, oggi decidere fra il progresso e il futuro e quanto del passato vogliamo sacrificare. Tiziano Terzani è stata una persona che, un uomo, che si faceva soprattutto delle domande, non dava delle risposte, ed è questo un po' quello che emerge da questi diari, un'idea di destino, diari di una vita straordinaria. Longanesi sono le parole scritte da Tiziano Terzani, raccolte con la prefazione di Angela Terzani, che ringrazio. E ora veniamo al premio Campiello, perché ieri venerdì è stata identificata la cinquina, sono stati scelti i cinque libri che arrivano appunto alla finale che verrà disputata poi a Venezia il 13 settembre. Questi cinque libri sono stati scelti dalla cosiddetta giuria dei letterati, sono in sostanza una decina di persone, di esponenti del mondo della cultura italiano. Ogni anno il presidente della giuria cambia, quest'anno è stata l'attrice Monica Guerritore. Allora, vediamo che cosa hanno scelto i giurati quest'anno. Diciamo che innanzitutto c'è una votazione pubblica che viene fatta a Padova e i singoli giurati esprimono i loro voti, dicono io voto, scelgo questi cinque libri, votano la propria cinquina perché di questo mi è piaciuto questo, di questo mi è piaciuto quest'altro, insomma, danno anche delle motivazioni. Un nome su cui sono stati tutti subito abbastanza d'accordo è stato quello di Michele Mari, con il romanzo Roderick Dadol, pubblicato da Einaudi, una sorta di romanzo d'avventura. C'è stato un giurato che l'ha definito quasi un finto romanzo dell'Ottocento. Il protagonista è un ragazzino di 10 anni. Altro nome su cui c'è stato subito, insomma, un relativo consenso è stato quello dello scrittore popolarissimo Mauro Corona, sicuramente lo scrittore più noto al grande pubblico dei cinque scelti dalla giuria dei letterati. Il suo libro si intitola La voce degli uomini freddi, pubblicato da Mondadori. È una sorta di fiaba, definiamola così. Lui immagina un popolo che vive di stenti in un posto veramente ostile, in una terra ostile, dove nevica sempre, in qualsiasi stagione dell'anno. La gente è chiusa, ma nello stesso tempo riesce a essere solidale. Giorgio Fontana è l'altro scrittore, giovane, arrivato in finale al Campiello. Morte di un uomo felice, il suo romanzo pubblicato da Sellerio. Il protagonista è un giovane magistrato che fa delle indagini, delle inchieste antiterrorismo nella Milano degli anni Ottanta. Fausta Garavini invece è una docente, una traduttrice, una scrittrice, insomma già da tempo nota in Italia. Ha ambientato il suo romanzo Le vite di Monsù Desiderio di Bompiani nel 600 a Napoli, dove immagina la storia di un pittore che comunque è realmente esistito. Sul quinto nome, insomma, ci sono stati un po' di scontri, diciamo, nella giuria. Non c'è stato subito un accordo. Ci sono state diverse votazioni. C'è stato un testa a testa fra Giorgio Falco e Giuseppe Sgarbi. Alla fine l'ha spuntata Giorgio Falco, anche lui scrittore di Einaudi, come Michele Mari. Quindi Einaudi ha due libri in finale al Campiello. E il libro si intitola La gemella H. È un libro che è ambientato durante il nazismo tedesco, il fascismo in Italia, poi si arriva anche ai giorni nostri, ma vuole essere soprattutto, insomma, un romanzo di denuncia contro tutte le forme di totalitarismo. Di Campiello naturalmente parleremo anche nelle prossime puntate del Cacciatore di Libri, dove potrete ascoltare direttamente i singoli autori sui loro romanzi. Anche questa settimana parliamo di un festival letterario. Lo sapete, questo è un po' il periodo in cui si concentrano tante iniziative. E mi fa piacere parlare di un festival che si svolgerà a Cagliari dal 5 all'8 giugno, quindi da giovedì a domenica prossimi. Si chiama Leggendo Metropolitano e l'ideatore, il direttore di questo festival è Saverio Gaeta. Saverio, cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori che magari non conoscessero questo festival cagliaritano. Qual è l'idea di base di questo festival e che tema ha quest'anno? Il Festival Leggendo Metropolitano si svolge a Cagliari, intanto in Sardegna. È nato 6 anni fa, questa è la sesta edizione, perché pensavo ci volesse qualcosa che avesse dei temi metropolitani, anche se in Sardegna è difficile, no? Pensare alla metropoli, però era importante avere dei temi che non calcassero sempre il tema della sardità, un po' della tipica autoreferenzialità che è un po' la Sardegna, no? E fossero dei temi che ci lanciassero veramente, ci proiettassero verso il Mediterraneo, verso il resto d'Italia, ma anche tutta l'area, no? Che circonda questo mare. E quindi ho deciso di fare un festival diverso in Sardegna, che ha avuto fra l'altro notevole successo. E quest'anno parliamo del gioco, il titolo esatto è I giochi dell'essere. Per me, come per tutti, penso, è una parte importante importante, un tema importante nella vita dell'uomo. E infatti la locandina di questo festival Leggendo Metropolitano di Cagliari è molto carina perché rappresenta proprio lo schema del gioco dell'oca. Allora Saverio, andiamo un po' sugli ospiti di questa edizione. Abbiamo visto il gioco, verrà declinato in vari modi. Quali sono gli ospiti, non dico di punta perché però gli altri si potrebbero offendere, insomma, però quali sono gli eventi che magari tu ci tieni a segnalare? Come sempre una domanda del genere mi spaventa molto, perché appunto qualcuno si potrebbe offendere, però ecco, io credo che intanto hai parlato giustamente di declinazioni, ci sono le solite declinazioni del festival, quindi il lavoro, la letteratura ovviamente che è il core del festival, la scuola, la lingua, le migrazioni, la giustizia, quindi la legalità. Abbiamo tanti stranieri, abbiamo per il lavoro per esempio il premio Nobel Auman, premio Nobel dell'economia del 2005, per quanto riguarda la psicanalisi Massimo Recalcati, chiudiamo con Bartezzaghi perché il gioco delle parole ci sembrava come minimo, no? Assolutamente non poteva mancare. Giorni come Pier Giorgio Di Freddi e Michele Mari, che rimane uno dei più grandi secondo me scrittori italiani. Poi c'è Michele Serra, vedo L'arte di stare sdraiati, insomma è stato il suo bestseller del 2013. Serra, sì. E poi uno scrittore che a me piace molto, uno scrittore americano, Jonathan Ledham, che parlerà addirittura di giocare con la letteratura. Insomma è un bel colpo portare a Cagliari Jonathan Ledham. Sì, io sono felicissimo, come dire. Sì, l'abbiamo voluto fortemente, anche per me uno dei grandi scrittori, insomma dovevamo comunque mantenere il livello. L'anno scorso avevamo Cunningham, l'anno prima Oz, insomma ci tenevamo moltissimo. Poi ci sono anche altre perle, altre chicche, facciamo questa cosa molto simpatica a nascondino tra i musei, no? Con Francesco Cataluccio, che sembra magari una cosa piccola, in realtà è proprio un percorso in 3 giorni tra i 3 principali musei d'Italia, che sono, vabbè, abbiamo scelto gli Uffizi, Brera e le Gallerie dell'Accademia. Insomma, come vedi, il programma è ricco, è difficile proprio scegliere un incontro. No, certo, poi ricordiamo poi ai nostri ascoltatori che possono trovare tutto il programma su leggendometropolitano.it, dove trovate anche una sezione che vi indica il modo più facile per arrivare a Cagliari, insomma, delle informazioni tecniche e pratiche. Grazie allora a Saverio Gaeta e buon festival, Saverio. Grazie a voi. E a proposito di festival letterari, è iniziato da alcuni giorni a Roma Letterature, che è il festival internazionale appunto di Roma, che durerà fino al 1 luglio, quindi insomma c'è la possibilità di vedere tanti incontri. Fra i prossimi incontri, non so, vi cito assolutamente a caso, giovedì 5 giugno Paolo Giordano, martedì 10 giugno Jhumpa Lahiri, una scrittrice indiana che vive da un paio d'anni credo a Roma, Silvia Ballestra e Dario Fo, Janet Winterson che parlerà di discuterà con Valeria Parrella. Insomma, per tutte le informazioni dovete andare su internet, naturalmente, festivaldelleletterature.it. E se invece vi trovate in Veneto dalle parti di Rovigo, avete ancora un giorno, cioè domani, per assistere agli incontri di Rovigo Racconta, un festival di libri, musica e teatro. Giusto per fare un esempio, domani pomeriggio alle 18:30 ci sarà Andrea Vitali. Questo è quanto accade a Rovigo Racconta. E seguiamo sempre con grande attenzione il Giro d'Italia in bicicletta in 80 librerie e non solo, che è stato organizzato da Letteratura Rinnovabile, che fa capo poi alla casa editrice Marcos y Marcos. La prossima settimana ci sono varie tappe in Toscana. Comunque, come sempre, per avere tutte le informazioni dovete andare su letteraturarinnovabile.com. Il pubblico può partecipare a queste biciclettate, proprio a queste tappe del Giro d'Italia, pedalando insieme a scrittori, bibliotecari, editori e così via. Tutte le informazioni appunto su letteraturarinnovabile.com. E prima di chiudere vi segnalo che a partire da martedì 3 giugno, insieme al Sole 24 Ore, ci sarà la possibilità di comprare, di acquistare ogni martedì gli indispensabili. Che cosa sono? Sono dei volumi, diciamo, della migliore, della più grande saggistica classica. Vi faccio degli esempi: Il Principe di Machiavelli, L'Elogio della Pazzia di Erasmo da Rotterdam, La Felicità di Seneca, L'Arte di Ottenere Ragione di Schopenhauer, Così parlò Zarathustra di Nietzsche e così via. Gli indispensabili sono in edicola ogni martedì con Il Sole 24 Ore. Anche per oggi è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che mi trovate su Twitter come Ale Tedina, su Facebook e per le puntate d'archivio su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Gli Indispensabili, 20 saggi universali per arricchire il tuo pensiero. Da martedì in edicola con Il Sole 24 Ore.